Fluisce tra me e te nel subacqueo un chiarore che deforma, un chiarore che deforma. Ogni passata esperienza la distorce in un fraseggiare mobile, distorto, inesperto, spertissimo linguaggio dell'adolescenza, difficilissima lingua del povero, rovente muro del solitario, strappanti intenti cannibaleschi, o la serie delle divisioni fuori del tempo. Dissipa tu, se tu vuoi, questa debole vita che non si lascia, che ci resta. Dissipa tu il pudore della mia verginità, dissipa tu la resa del corpo al nemico, dissipa la mia effigie, dissipa il remo che batte sul ramo in disparte, dissipa tu, se tu vuoi, questa dissipata vita, dissipa tu le mie cangianti ragioni, dissipa il numero troppo elevato di richieste che m'agonizzano, dissipa l'orrore esposta all'orrore, al bene, dissipa tu, se tu vuoi, questa debole vita che si lagna, ma io non ti trovo e non oso dissiparmi, dissipa tu, se tu puoi, se tu sai, se ne hai il tempo e la voglia, se è il caso, se è possibile, se non debolmente ti lagni questa mia vita che non si lagna, dissipa tu la montagna che mi impedisce di vederti o di avanzare, nulla si può dissipare che già non si sia sfiaccato, dissipa tu, se tu vuoi, questa mia debole vita che si incanta ad ogni passaggio di debole bellezza, dissipa tu, se tu vuoi, questo mio incantarsi, dissipa tu, se tu vuoi, la mia eterna ricerca del bello e del buono e dei parassiti, dissipa tu, se tu puoi, la mia fanciullaggine, dissipa tu, se tu vuoi o puoi, il mio incanto di te che non è finito, il mio sogno di te che tu devi per forza assecondare, per diminuire, dissipa, se tu puoi, la forza che mi congiunge a te, dissipa l'orrore che mi ritorna a te, lascia che l'ardore si faccia misericordia, lascia che il coraggio si smonti in minuscole parti, lascia l'inverno stirarsi importante nelle sue celle, lascia la primavera portare via il seme dell'indolenza, lascia l'estate bruciare violenta e incauta, lascia l'inverno tornare disfatto e squillante, lascia tutto, ritorna a me, lascia l'inverno riposare sul suo letto di fiume secco, lascia tutto e ritorna alla notte delicata delle mie mani, lascia il sapore della gloria ad altri, lascia l'uragano sfogarsi, lascia l'innocenza e ritorna al buio, lascia l'incontro e ritorna alla luce, lascia le maniglie che coprono il sacramento, lascia il ritardo che rovina il pomeriggio, lascia, ritorna, paga, disfa la luce, disfa la notte e l'incontro, lascia nidi di speranza e ritorna al buio, lascia credere che la luce sia un eterno paragone.